L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo. Quando ci sono le emergenze siamo campioni di generosità, lo dicono le storie, lo dicono i numeri. L'economia che si mette in moto è quella che abbiamo definito l'economia della bontà. L'emergenza coronavirus ha smosso enormi capitali, come è avvenuto d'altronde con lo tsunami o col terremoto nel centro Italia, tutto moltiplicato per i numeri dell'emergenza. Ben ritrovati da Anna Migliorati, torniamo oggi a parlarne e lo facciamo come sempre partendo da una storia, quella di Monna Lisa Byte. Il progetto è di una laureata in geologia alla Bicocca di Milano, 35 anni, ex ricercatrice alla NASA, si chiama Emma Gatti, benvenuta. Per avermi invitato e buongiorno a tutti. Qual è il vostro intento? Monna Lisa è una startup per creare un magazine scientifico digitale. Un'idea che unisce due mondi, il mondo scientifico, che è quello dal quale vengo io, perché sono ex ricercatrice, e il mondo della grafica e dell'animazione digitale. Diciamo che nasce tra l'altro in un momento in cui c'è una grandissima fame di una scienza comprensibile a tutti. Sì, questo momento paradossalmente ci ha aiutato. Noi abbiamo presentato questo progetto molti mesi fa, eravamo convinti già molto tempo prima, però adesso paradossalmente anche il pubblico vede lo scopo sociale di quello che stiamo cercando di fare, che è quello di comunicare la scienza in una maniera più coinvolgente, di modo che anche la gente che magari naturalmente non si interessa o perché non ha una laurea scientifica o perché non è particolarmente appassionata ci legga, e anche in una maniera però un po' nuova, una maniera che sia adatta ai tempi che corrono. Com'è andata la raccolta? È andata benissimo e non ce l'aspettavamo, perché avevamo 2 mesi per raccogliere 5.000 euro e abbiamo raggiunto 5.000 euro in una settimana, che è un record, e stiamo continuando. Avete percepito anche voi in qualche modo un cambiamento di interesse proprio sulla comunicazione scientifica, cioè la necessità delle persone di conoscere anche questi ambiti proprio per saper giudicare quello che gli sta attorno, visto anche tutto quello che è successo? Sì, tantissimo. Io per prima, perché gli effetti della disinformazione scientifica sono sotto gli occhi di tutti. Comunque il caos nei supermercati, la paranoia, i siti di complotti, sono tutti lì, la radice è la stessa, una profonda disinformazione scientifica e l'inabilità a capire quando l'informazione è legittima e quando non lo è. Posso permettermi di mettermi dall'altra parte? Forse anche a volte l'incapacità del mondo scientifico di comunicare. Che è il perché non sono da sola in questa missione. Il ricercatore vive in un ambiente nel quale interagiamo soltanto tra persone che parlano la stessa lingua. E quello che noi stiamo cercando di fare però è andare un po' oltre. L'era digitale ha portato tutta una nuova dimensione, l'abbiamo visto anche in questi giorni seguendo i nuovi, la cronaca del coronavirus, come i grafici si animano, le figure si spostano, le palline si muovono. Esatto. Invece quando sarete? Diciamo, coronavirus permettendo, vorremmo esserci dopo l'estate. Grazie a voi e veniteci a trovare Monna Lisa Bytes, ci trovano sui social, su Facebook, su Instagram, su Twitter, siamo ovunque, scriveteci hello@monnalisabytes.com. Quando la vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarma. Ovviamente solo una piccola storia, evolutamente piccola, perché ci sono decine, centinaia di raccolte che sono arrivate in soccorso di ospedali, reparti in difficoltà, tutto quanto legato al coronavirus, e che sono state importantissime. Ma come funziona, come ha funzionato, è anche questa economia delle piccole cose. Facciamo i conti. E saluto Claudio Bedino, CEO e fondatore della piattaforma Started, che fornisce supporto tecnologico per le raccolte fondi e quindi un osservatorio in qualche modo privilegiato. Benvenuto. Buona giornata a tutti. Quando si parla di donazioni, di progetti che raccolgono fondi, in realtà non è tutto uguale. Facciamo un po' di chiarezza innanzitutto. Come funzionano queste piattaforme di raccolta? Abbiamo diverse formule, sia in termini di tipologia di raccolta, quindi raccolte di fondi che hanno un obiettivo e che se non viene raggiunto quell'obiettivo i fondi effettivamente non vengono poi transitati dai conti, dalle carte dei donatori, ma vengono appunto approvati solo al raggiungimento dell'obiettivo di questo goal, o anche campagne invece che raccolgono tutto quello che i donatori danno a prescindere dall'obiettivo. Questa è già la prima distinzione. Poi abbiamo distinzione anche di piattaforme, perché abbiamo chiaramente piattaforme che sono piattaforme tipicamente o internazionali o nazionali, ma che operano già anche su tante tipologie di raccolta, dal sociale alla creatività, piuttosto che alle comunità locali. In questo caso chiaramente sono piattaforme che hanno una finalità tipicamente di lucro e quindi hanno anche dei modelli di business che richiedono una piccola commissione generalmente sulle transazioni che avvengono. Una forma di raccolta fondi che funziona anche non nell'emergenza e che ha naturalmente dei ricavati. L'altra formula invece è quella che viene tipicamente attivata anche in situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo, ma non solo, su portali magari dedicati, e in questo caso generalmente chiaramente non c'è una finalità di lucro dietro alla raccolta. La struttura, quindi l'amministrazione comunale piuttosto che l'azienda, si preoccupa di pagare l'infrastruttura tecnologica, ma poi tutte le donazioni sostanzialmente arrivano a destinazione di quello che poi è il tema della raccolta. Questa è un po' la grande distinzione tra piattaforme che già esistono e che quindi si adeguano e chiaramente sono a servizio giustamente di raccolte legate alle emergenze, e chiaramente invece portali che, o meglio piattaforme o comunque siti anche a volte temporanei, che invece vengono attivati specificatamente solo per questo tipo di emergenza. La tendenza alla donazione è un mercato che ha visto anche cifre importanti in questa situazione, se si è visto con l'emergenza, e la seconda domanda è una crescita o è semplicemente, almeno come sensazione, lo spostamento solo su un settore? Sicuramente questo si era già visto, ricordo molto bene ad esempio, ahimè, il periodo del grande terremoto in centro Italia, si era un po' attivata già ai tempi in maniera molto massiva una modalità di donazione anche di questo tipo attraverso il crowdfunding, e già ai tempi appunto i volumi erano cresciuti sensibilmente. Io credo che in questa circostanza vediamo che i numeri sono esponenzialmente più alti. Questo Covid è stato per il crowdfunding un po' un punto anche di svolta per tanti aspetti. Numeri alti che partivano già da una quota annua di circa 16 milioni di euro di raccolta, quindi parliamo di cifre importanti. Assolutamente, il 2019 si era chiuso appunto a circa 16 milioni che erano molto alti, però comunque segnavano una tendenza di appiattimento nella curva di crescita del donation reward crowdfunding, perché ricordiamo il crowdfunding e anche altre modalità più finanziarie come quella dell'equity e del lending. Gli ultimi due anni il tasso di crescita è stato sicuramente più elevato in queste due ultime modalità più finanziarie, quella appunto di per entrare in quota societaria nelle aziende piuttosto che per prestare denaro, ad appannaggio un po' di quello che invece è il modello originario di crowdfunding, quello appunto delle donazioni, delle ricompense che un po' tutti ormai conosciamo. In realtà, alla contingenza di questa emergenza c'è stato sicuramente un revamp importante di questa modalità, proprio perché invece non c'erano i presupposti per utilizzare altre forme di crowdfunding come l'equity o come il lending, che probabilmente però invece verranno poi utili nel proseguire dei mesi, perché il tessuto economico avrà bisogno sicuramente di capitali di rischio oltre che di donazioni. Quindi probabile che si sposti o che si debba spostare da il progetto immediato al prestare invece per far ripartire le attività. Esattamente così. C'è una campagna che ha fatto discutere e che è quella legata ai Ferragnez, chiamiamoli così. Questo è un caso particolare perché si è detto molto, ha fatto anche tra virgolette arricchire l'intermediario, ma perché quello è un sistema, come dicevamo prima, già esistente, fa parte in qualche modo del meccanismo. Sì, esattamente, la piattaforma, senza citare fare nomi, è una piattaforma esistente, una piattaforma internazionale che da sempre è attiva, sul senso che la piattaforma chiaramente ha un proprio modello di business che non cambia o comunque potrebbe cambiare, ma in questa circostanza non lo ha fatto. In realtà in altri casi alcune piattaforme internazionali blasonate hanno deciso di eliminare le commissioni da tutte le raccolte destinate a grandi calamità naturali, ricordiamo appunto terremoti piuttosto che lo tsunami e quant'altro, no? In questo caso la piattaforma non ha voluto abbattere queste commissioni, che in realtà nella sua formula, ed è qui forse un po' quello che ha fatto discutere molto, perché ed è anche un po' tra gli addetti ai lavori una discussione aperta su quello che potrebbero essere invece delle best practice da attivare sulle piattaforme, e ha un modello di business un po' particolare che porta ad avere delle commissioni che non sono intrinseche già nella donazione, ma sono tra virgolette libere, dico tra virgolette perché in realtà sono già preimpostate, quindi c'è questo 10% famoso che ha fatto molto discutere, ha fatto anche parte. Beh, 10% non è pochissimo. Esatto, 10% che è una donazione, in realtà è un processo per cui tu puoi modificare quell'importo e portarlo anche, cioè quella percentuale portarla anche a zero, ma nessuno lo fa, perché nel momento della donazione chiaramente è emotivamente coinvolto, è una serie di click molto veloci anche nel processo poi di checkout e non si vede, e allora si prosegue. Il problema è che poi non fa 10 euro ma fa 11 euro la donazione, e quell'euro ovviamente va alla piattaforma. È possibile, come dicevamo allora, che tutto questo, come già accaduto, sia una grande mobilitazione di risorse, ma che potremmo rischiare magari verso fine anno di accorgersi che alcune istituzioni, alcune associazioni, anche alcuni settori che beneficiavano di tutto questo, in realtà potrebbero invece trovarsi in difficoltà per la concentrazione massiccia su un obiettivo solo, pur legittimo? Probabile, nel senso che chiaramente questa modalità, diciamo, tra virgolette, premia di più quelle strutture che sono anche, diciamo, più attive nella comunicazione, hanno una rete relazionale più importante, soprattutto sull'online, perché il crowdfunding, ricordiamo, è uno strumento che chiaramente vive online e quindi chiaramente ha bisogno di visibilità di quel tipo. E sicuramente sarà però un volano anche per far attrezzare questo tipo di strutture che non ne hanno goduto troppo, per capire che comunque bisogna presidiare anche quel mondo, non solo quando c'è la crisi. Grazie, tante storie e tanta economia attorno a noi. Appuntamento alla prossima. Ancora un saluto da Anna Migliorato.